Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. E una buona giornata, gentili ascoltatori. Bentrovati a una nuova puntata di Nessun luogo è lontano. In redazione a confezionare con me c'è questo programma, c'è Valeria Coffaro e oggi in regia c'è Fabio Cantadori. Le città del futuro, il futuro delle città. Di questo parliamo oggi a Nessun luogo è lontano. Perché? Perché nei prossimi decenni, secondo le stime dell'ONU, la popolazione mondiale aumenterà dagli attuali 6,8 miliardi a 9,1 miliardi di persone nel 2050 e circa il 70% di queste vivrà nelle città e nelle aree urbane. Un numero impressionante se si pensa che oggi la metà della popolazione mondiale vive ancora in zone rurali. Ma come saranno le città del futuro? Quali sono i modelli virtuosi a cui possiamo tendere? Per interagire con noi le coordinate sono 349-238-6666, la pagina Facebook Nessun luogo è lontano, l'email nessunluogo@radio24.it, perché potreste anche voi suggerirci, perché no, la vostra città ideale del futuro, magari l'avete visitata in un viaggio d'affari, in un viaggio per turismo. Dopo l'epoca delle metropoli come Londra, New York, o quella che stiamo vivendo delle megalopoli come Mumbai, Città del Messico o Shanghai, nel 2030 sarà la volta delle globalopoli, città sterminate, dove si mescoleranno lingue, etnie e modelli economici capaci di ospitare al tempo stesso grandi ricchezze e profonde povertà. E allora quali sono le sfide delle città del futuro? L'immigrazione, l'inquinamento, l'ecosostenibilità, la tecnologia. Queste le sfide della metropoli, della globalopoli 3.0, ma siccome nessun luogo è lontano, nemmeno quelli immaginari, io intanto vi porto a Pleasantville. There's a place where life is simple. People are perfect. And everything is black and white. Honey, I'm home. It's a place that's as far from reality as we can imagine. How about some marshmallow rice squares? Those are swell. But maybe it's a lot closer. Let me see that. Than we think. L'utopia, l'idillio di Pleasantville, questo film americano del 98 che era ambientato in una ridente cittadina americana degli anni 50 in cui funzionava tutto, era tutto perfetto, era tutto idilliaco, era un'elegia del modello urbano e abitativo. L'ideale, l'idea di una città perfetta però è antica, basti pensare a Platone, a Thomas More, eccetera. Qual è il punto in questione? Il punto è, esiste una città ideale o, come dire, è sempre stato un vagheggiamento, una tensione verso la quale poi, insomma, che non siamo mai riusciti a concretizzare, che non abbiamo mai potuto toccare? Giro questa scottante prima domanda all'ospite, il primo ospite di quest'oggi, che è il professor Agostino Petrillo, docente di sociologia al Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, la prima domanda è questa: la città ideale esiste o no? Beh, città ideali ne sono esistite molte, anche concretizzate storicamente in degli esempi che ci rimangono oggi. Quanto queste città ideali poi siano state città felici è un altro paio di maniche. Sicuramente, come dire, tutta la storia urbana fin dall'antichità, come diceva lei, è percorsa da questo grande afflato a trovare la felicità attraverso la città, no? E c'è l'idea che comunque la città, l'orgoglio, per esempio, degli scrittori antichi, quando descrivevano le loro città come un qualcosa di estremamente più avanzato, più adatto all'uomo rispetto alla dimensione di vita nomade o dei barbari, no? Ma ancora anticamente, nell'Odissea, e Polifemo e gli altri ciclopi, no? Sono svillaneggiati come quelli che vivono ognuno per i fatti suoi e che non hanno nessuna idea di che cos'è una polis, per esempio. Sì, la polis dove l'uomo è al centro, no, professore? Perché poi il punto nodale è quello. L'idea è che la città è una macchina per produrre condizioni di vita migliori e per produrre, potremmo dire, felicità nei vari sensi poi che attraverso l'epoca è stata data questa parola, perché poi probabilmente quello che noi oggi pensiamo sotto il concetto, il termine di felicità è magari qualcosa di diverso da quello che potevano immaginare gli antichi, però diciamo che nella città probabilmente si sono concentrate anche poi storicamente le più grandi capacità di creare delle opportunità, delle possibilità, delle dimensioni di vita migliori. Questo è quello che è il portato di questa tradizione nobile. Certo, quindi professore, possiamo sintetizzare che il rapporto uomo-città, uomo-urbanistica ormai è un rapporto irrinunciabile rispetto al quale dobbiamo fare i conti. E allora torniamo alla domanda che mi sono fatto in apertura: quali sono le sfide che attendono le città 3.0? Ascoltate Andrea Colantonio, coordinatore di un'interessante ricerca della London School of Economics. Le sfide sono molte e anche abbastanza difficili, sono sfide ma anche opportunità. Direi innanzitutto è un problema di gestione urbana, gestire non solo la popolazione ma anche l'infrastruttura, quindi l'hardware della città oltre al software della città. L'hardware, parliamo di infrastrutture urbane, quindi di trasporti, non so, treno ad alta velocità o i porti, aeroporti e così via, ma anche strutture, infrastrutture sociali, quindi parliamo di scuole, di ospedali, insieme a quello che si chiama il software della città, cioè il livello di conoscenza della città, soprattutto dal punto di vista di capacità produttive, generazione di talenti, di laureati, capitale umano e capitale sociale. Allora, professore, capitale umano, capitale sociale, hardware, software, mi sembra che le parole di Colantonio diano già, insomma, una bella griglia teorica per iniziare a muoverci. Quello che noi cercheremo di fare oggi, grazie a lei, che insomma le do un po' il timone in qualche modo, perché mi aiuterà a traghettare me stesso e gli ascoltatori in un viaggio attraverso alcuni modelli in giro per il mondo. Se è vero che nessun luogo è lontano, quest'oggi insomma il mappamondo si farà ancora più piccolo, perché cercheremo di viaggiare di città in città a caccia di modelli virtuosi. Prima di far iniziare a ruotare il mappamondo, però, ascoltiamo insieme l'altra esigenza che denuncia Colantonio. Leadership, parliamo di non solo partiti politici, ma leader, quindi sindaci di città che riescono in qualche modo ad avere delle visioni per queste città, fare dei programmi strategici, quindi creare un sistema di governance che coinvolga la maggior parte della popolazione. In questi anni si è assistito ad un fenomeno di frammentazione di tutti gli attori che contribuiscono in qualche modo allo sviluppo urbano di queste grandi città. Un esempio molto chiaro è Barcellona che a fine degli anni 80 era una città quasi in bancarotta, con dei problemi sociali molto, molto forti insieme a problemi economici. Grazie al sindaco Maragall e al sindaco Clo sono riusciti a trasformarsi attraverso dei progetti di rilancio economico e sociale molto specifici. Il problema di queste città è che ci sono dei cicli economici e politici. E penso che parecchie di queste città che sono riuscite a trasformarsi grazie a delle politiche statali molto forti siano o stiano giungendo alla fine di questi cicli, quindi sono in procinto di iniziare un nuovo ciclo e stanno perdendo un po' la loro identità, cioè stanno più che perdendo, stanno cercando la loro nuova identità. Le città, la ricerca della loro identità, i cicli, quasi come fossero organismi viventi. Alla fine Colantonio fa prima, come dire, un paragone tecnologico, hardware e software, e poi insomma un paragone più biologico in qualche modo. Ha citato il professor Colantonio l'aspetto economico, e questo sì è fondamentale. Ascoltate ancora le sue parole. Un altro problema che le città devono affrontare, queste città del futuro devono affrontare, sono il problema degli investimenti, perché si è assistito in questi anni a dei grossi investimenti in infrastrutture urbane, grazie anche ai programmi della comunità europea, mi riferisco al fondi strutturali, al programma Urban 2 della comunità europea, e questi finanziamenti sono giunti ad un termine, cioè l'ultimo ciclo è quello dal 2007-2013, quindi dal 2013 penso che si dovrà pensare a un nuovo modello di finanziamento urbano che coinvolga in maniera più attiva il settore privato, quindi le società di investimento privato, e mi riferisco più in particolare agli investitori istituzionali come fondi pensionistici, cioè, ad esempio, che hanno anche una visione di lungo termine, che riescano a creare dei fondi di sviluppo urbano, quindi fondi a capitale pubblico e privato che investano in infrastrutture non a fondo perduto, che è stato il modello prevalente fino ad adesso, quindi finanziamenti sì, a fondo perduto come i fondi strutturali della Comunità Europea, ma investimenti che però produrranno dei ricavi che praticamente permetteranno di fare questi investimenti alle compagnie private. Allora, professor Petrillo, ha ascoltato con me quanti elementi entrano in gioco nel rapporto uomo-città, l'elemento economico, l'hardware, il software, come diceva Colantonio. Ma iniziamo questo viaggio, iniziamo a far girare il mappamondo per trovare degli esempi o dei modelli o dei paradigmi che potranno accompagnarci nella nostra vita metropolitana da qui ai prossimi 30-50 anni. So che c'è una città dall'altro lato del mondo, in Giappone, Tokyo, che anche secondo lei riassume un po' alcune caratteristiche. Io vorrei proprio partire da Tokyo con lei. Beh, Tokyo è forse la città in cui oggi più si concentra, meglio si concentra tutta una serie di potenziali, di capacità, di saperi che sono caratteristici dei modelli più avanzati di metropoli. E Tokyo è una città che è un terzo del prodotto interno lordo del Giappone e praticamente produce quanto la Francia. È facile pensare che in essa debbano perciò concentrarsi una quantità di capacità tecnico-pratiche, di intelligenze, di saperi fantastica, perché per ottenere un risultato di questo genere evidentemente deve essere altissima la concentrazione dei saperi. Sì. Qui abbiamo uno dei profili importanti, anche rispetto alle cose che diceva prima Colantonio, delle grandi metropoli, perché a lungo, per esempio, negli anni 90 si è dibattuto se tanti modelli metropolitani non fossero in crisi, se c'è bisogno di strutture più agili, e invece poi oggi abbiamo negli ultimi anni la conferma che sono proprio le grandi e grandissime concentrazioni metropolitane, quelle che riescono meglio a tenere il passo del rinnovamento tecnologico, dell'economia delle reti, delle grandi opportunità offerte dalle comunicazioni avanzate. Per cui in realtà se qualcuno aveva pensato nei 90 che ci fosse la possibilità di una morte delle città o quantomeno di un tramonto delle grandi e grandissime concentrazioni, oggi il termometro segna tutt'altra temperatura e procediamo in un'altra direzione, nel senso cioè che grande è bello, non piccolo è bello come si era pensato, anche perché occorrono sempre più tutta una serie di supporti infrastrutturali, come diceva Colantonio prima, no? Che si possono ritrovare solo nelle grandi, grandissime concentrazioni e non sono solo, come dire, infrastrutture materiali, per cui strade, ferrovia, ma sono anche infrastrutture fatte di conoscenze informatiche. Capitale umano, quello che insomma. Capitale umano, tant'è vero che poi si parla per questo di nuove elite che si vanno concentrando nelle capitali mondiali e che sono proprio questi tecnici altamente qualificati ormai indispensabili per il funzionamento dell'economia ai livelli più alti e sono esperti di finanza, esperti di computer, esperti di comunicazioni e formano, come dire, una sorta di nuova classe sociale che si ritrova in tutte le grandi concentrazioni metropolitane attuali. Per cui l'esempio di Tokyo secondo me è particolarmente illuminante proprio perché incarna, come dire, tutta l'enorme potenza produttiva, creativa che c'è oggi nelle grandi, grandissime concentrazioni metropolitane. Ecco, professore, a volte però la potenza creativa, la potenza produttiva dà ritmi di crescita impressionanti e porta a volte a trasformazioni rapidissime e anche insomma a delle trasformazioni che sono o possono essere discutibili. Ci arriviamo tra pochissimo perché andiamo a Shanghai. Nessun luogo è lontano. Città del futuro, futuro delle città. Ci spostiamo da Tokyo, andiamo a Shanghai perché grazie al nocchiero di eccezione di quest'oggi che ci accompagna in questo viaggio, il professor Petrillo, stiamo cercando di indagare i paradigmi che possono ingabbiare la realtà e farci capire quali saranno le città 3.0. Professor Petrillo, sinteticamente, una fotografia di Shanghai. La foto più bella di Shanghai la offre il cosiddetto bosco dei grattacieli, che accoglie il visitatore che arriva per la prima volta in città. È uno skyline fantastico, ormai tale da far impallidire quello newyorkese, tanto per dire una. E sono oltre 400 grattacieli, tutti costruiti negli ultimi decenni, che hanno creato una densità unica al mondo di edifici alti, però con tutte come dire, le conseguenze che si possono immaginare di una crescita così rapida, perché Shanghai è il prototipo di una megalopoli cresciuta in maniera frenetica, soprattutto per incremento dovuto ai flussi migratori interni dalle campagne cinesi. Addirittura hanno avuto un problema delle abitazioni macroscopico, fino a un po' di anni fa c'era addirittura gente che dormiva sugli alberi nel parco a Shanghai, perché soprattutto lavoratori precari a giornata che non avevano dove trovare riparo per la notte. Ma il prezzo di questa crescita, tra l'altro una crescita fantastica, corredata dall'introduzione di tecnologie avveniristiche, qualcuno ne avrà avuto un'idea vedendo l'Expo 2010, insomma tutto quello che è stato realizzato nell'ambito dell'Expo, ma il prezzo pagato è stato la distruzione praticamente di buona parte della vecchia Shanghai. Adesso si piangono lacrime di coccodrillo, perché anche lì qualcuno ha cominciato a rendersi conto che quello era un patrimonio prezioso, però per decenni si è andato avanti tirando giù senza pietà pezzi di centro storico antico, come peraltro è stata una crescita assolutamente che non ha tenuto conto finora, anche se con il 2010 poi hanno introdotto dei correttivi, della questione degli spazi verdi, per cui Shanghai era iperconcentrata, affollatissima e con una presenza di verde ridottissima. Ecco, professore, no, ecco, la interrompevo perché da un lato mi sembra di capire che a volte c'è la necessità di, come dire, ripartire da zero. Cioè a volte gli urbanisti si trovano di fronte alla necessità di, come dire, spianare. No, questo è verissimo. Oppure di trovare, per esempio, delle formule nuove. Io adesso parlavo di Shanghai come città particolarmente problematica dal punto di vista degli spazi verdi, ma se noi pensiamo per esempio a San Paolo del Brasile, è un'altra città dove l'abitato è così fitto, così denso, così strutturato, anche poi da così permeato da infrastrutture di tipo aeroportuale, per esempio, sì, che il verde, e lì addirittura sono usciti dei programmi molto significativi dal titolo Ripensare San Paolo, riprogettare il verde a San Paolo. Certo. Con professore, l'idea di sfruttare tutti gli spazi possibili per introdurre dei correttivi. Dato che ha citato il problema dell'immigrazione parlando di Shanghai, allora io la porto io a Toronto, in Canada, dove c'è un esempio virtuoso da questo punto di vista. Toronto è una città che conosco bene, perché ormai ci presto servizio da 2 anni e poi comunque la conosco anche per motivi personali da ancora più tempo. Credo che sia una città, anzi sono sicuro, una città che ha molto da insegnare, in particolare dal punto di vista della convivenza dei tanti gruppi etnici che la costituiscono. Toronto è appunto al giorno d'oggi una città in cui la maggioranza delle persone che vi abitano, e parliamo proprio della data di oggi, sono nate fuori dal Canada, quindi è una città di immigrati, in cui la maggioranza delle persone sono immigrate. Quindi è una città che ha un mosaico, proprio un coacervo di etnie diverse, ma la cosa straordinaria è che queste etnie vivono in un'armonia straordinaria, e quindi anche gli ultimi arrivati, che in genere sono persone che vengono da paesi diseredati, in gran parte spinte ancora al giorno d'oggi dal bisogno, la maggior parte delle persone che viene comunque sono persone che vengono per fare lavori manuali, non tutte, ma insomma in gran parte, riescono ad integrarsi immediatamente, questa è la cosa straordinaria, e ad assimilare questa predisposizione, diciamo, alla convivenza armonica, al rispetto civico, immediatamente. Allora, che cosa c'è? Qual è il segreto della città? Sicuramente è due cose, a mio avviso, sopra le altre, ce ne sono tante che forse potrebbero essere citate, ma secondo la mia esperienza sono due prevalentemente. Una è il messaggio che viene inviato dal paese che accoglie queste persone, che è quello di grande apertura, cioè di dire a queste persone: non rinnegate voi stesse, noi vogliamo che voi siate così come siete, cioè che manteniate la vostra identità culturale, che manteniate la vostra tradizione, ci piacete proprio perché siete diversi. Però chiaramente questa politica qui è bilanciata da un altro messaggio che il Canada dà, e cioè dice a tutte le persone che vengono, qui comunque esistono delle regole che sono semplici, il sistema canadese è un sistema di stampo anglosassone, quindi la legge è poca ma chiara, ecco, a questo pregio qui, quindi le regole sono chiare, intellegibili, insomma facilmente anche intuibili, però sono applicate con enorme rigore, per cui ecco il messaggio che il Canada dice: voi venite, fate, rimanete quello che siete, questo crea la bellezza e la ricchezza della città, però rispettate le regole. E questa era Toronto, con le parole di Gianni Bardini, che è il console italiano appunto lì a Toronto in Canada, e ancora, professore, metteva l'elemento umano al centro, perché alla fine le città sono popolate da uomini, insomma sono fatte anche dagli uomini, dovrebbero essere fatte per gli uomini. Ma Toronto è molto interessante, è stata anche studiata, diciamo, sotto un profilo un po' più teorico, il libro famoso della Leonie Sandercock, Cosmopoli, è proprio costruito in filigrana sull'esperienza multietnica di Toronto. Bisogna dire che appunto che non esistono solo casi fortunati come Toronto, ci sono anche mega città, grandissime città in cui in realtà poi ci sono stati anche dei conflitti legati all'immigrazione. Un'altra grande città molto interessante, oggi di nuovo alle dette dell'economia mondiale, Los Angeles, per esempio, ha conosciuto una stagione molto conflittuale legata soprattutto all'arrivo massiccio di migranti negli anni Ottanta. Negli anni Ottanta sono arrivati a Los Angeles circa 500.000 di immigrati l'anno. Sì. Da una parte questo ha costituito per la città un grande serbatoio, un potenziale anche per poi il decollo economico, perché poi la città è veramente cresciuta dal punto di vista del suo potenziale economico e della sua ricchezza, soprattutto negli anni 90. E al tempo però c'è stato poi uno scontro sociale, perché le rivolte, insomma, agli anni avanti ce le ricordiamo esattamente, tutti. Esattamente, per cui, come dire, non sempre le cose da questo punto di vista hanno funzionato al meglio. D'altra parte, una cosa è certa, che queste grandissime concentrazioni urbane sono delle calamite per i migranti, funzionano come dei magneti, e d'altra parte si giovano moltissimo del contributo dei migranti, sia nelle forme che dicevamo prima, per esempio di selezionare personale altamente qualificato da qualunque parte venga, sia di utilizzare tutta una parte invece di personale umile, di lavoratori a giornata, in nero a volte, tant'è vero che si è perfino parlato di una preoccupante tendenza alla polarizzazione sociale nei grandissimi centri planetari attuali, cioè da una parte ci sarebbero queste nuove elite dei lavori importanti, dei lavori che contano, e dall'altra ci sarebbe una manodopera non qualificata che poi viene spinta ai margini della città o in insediamenti periferici. E la città, quindi, che non riesce più a essere ponte fra due mondi diversi, fra due classi sociali diversi, beh, c'è una città in bilico che è un ponte essa stessa, e vi voglio portare proprio lì, a Istanbul. E allora ho chiesto alla nostra Marta Ottaviani, giornalista, collega che sta a Istanbul, autrice di Mille e una Turchia, di fare che cosa? Beh, una cartolina proprio della città in cui lei vive. Costruisce grattacieli ma scava anche tunnel sotto il mare che uniranno Europa ed Asia. È la Istanbul del terzo millennio, portabandiera di una Turchia che bussa da tempo le porte dell'Europa, ma che ruggisce quando si rivolge al mondo arabo e alla comunità economica, con una ripresa post-crisi che ne fa uno dei mercati più interessanti dei prossimi anni. La megalopoli sul Bosforo conta ufficialmente 12 milioni di abitanti, ma ufficiosamente sarebbero almeno 5 in più. Nel 2011 verrà unita da un importante sistema programma di strade sotterranee che correrà sotto il Mar di Marmara, ma che ha fatto arrabbiare l'UNESCO perché passa troppo vicino alla millenaria Basilica di Santa Sofia. Dedita non solo agli affari, ma anche al divertimento, Istanbul è una città il cui skyline cambia di continuo, dagli edifici storici della penisola di Sultanahmet al distretto finanziario di Levent, dove sorgono grattacieli e interi quartieri creati dai migliori architetti in circolazione. Istanbul che lavora, prega e si diverte, con il quartiere di Fatih ad alta vocazione religiosa, quello di Beyoğlu, regno della movida notturna, e quello di Nişantaşı, patria incontrastata dello shopping di lusso e dove si trovano i locali più alla moda. Erede dell'antica Costantinopoli che ruotava attorno al foro e della Istanbul dei sultani che gravitava attorno al Gran Bazar, l'Istanbul del terzo millennio è un luogo dove ognuno, ricco, povero, laico o religioso che sia, trova il suo posto e riesce a portare a casa un pezzo di felicità, da una focaccia calda all'ultima tendenza della moda più ricercata. Allora abbiamo accarezzato il mondo arabo, quello musulmano, entriamoci prepotentemente perché? Perché oggi parte il Ramadan e in secondo luogo perché? Perché c'è una città al mondo che tutti i musulmani debbono visitare almeno una volta nella vita e quindi stiamo parlando di una città che in qualche modo è un obiettivo per almeno un miliardo e mezzo di persone. Questa città è la Mecca. Per descriverci alcune delle curiosità, delle caratteristiche di questa città, ho chiamato Marco Guidi, giornalista, editorialista del Messaggero e professore all'Università di Bologna. Marco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora Marco, c'è un aneddoto molto curioso sulla Mecca che in queste settimane ha un cantiere aperto perché stanno costruendo la seconda torre più alta del mondo, l'orologio di Allah, dicono, la torre del Clock Royal Tower Hotel della Mecca, un hotel gigantesco con questa torre altissima che sarà appunto la più alta del mondo perché toccherà 591 metri. Tu in passato hai lavorato gomito a gomito con un pool, uno staff di architetti che seguivano i lavori, dei lavori alla Mecca, ma da dove li seguivano, Marco? Dunque, il problema è questo, una ditta di Bologna, la Poggi Intissi, fu incaricata di fare le cuspidi dei minareti della Mecca. Naturalmente, non essendo musulmani, i tecnici stavano fuori dalla zona Haram, dalla zona cioè vietata ai non musulmani, e seguivano con telecamere via TV le squadre invece di montatori che erano tunisini e in gran parte algerini che essendo musulmani quindi diretti via TV dagli architetti, dai tecnici montavano queste cose e io ho avuto la fortuna trovandomi da quelle parti di poter dare un'occhiata sulla Mecca, in realtà quasi solo sulla grande moschea quella volta, sì. Però sono stato praticamente alla Mecca per via telematica, visto che per via personale, non essendo io musulmano, non ci posso andare. Ecco Marco, sinteticamente, quale trasformazione sta vivendo la Mecca adesso? Si dice che stia imitando Las Vegas, è pieno di hotel a 5 stelle, è vero o è una, come dire, un'esagerazione? Beh, è vero e falso insieme, vero nel senso che nel mese di Dhulhijja, cioè il mese del pellegrinaggio dell'Hajj, arrivano oltre 2 milioni di visitatori per fare il pellegrinaggio maggiore, cioè l'Hajj. E poi per tutto l'anno arrivano un altro milione almeno di visitatori per fare l'Umra, il pellegrinaggio minore, quello che non esaudisce il quinto precetto dell'Islam, della fede islamica. Quindi una città che ospita almeno 3 milioni di visitatori per più giorni deve organizzarsi. E ci sono perciò le tende per i visitatori poveri, dove dormono lì nella pianura di Mina, che non sono tende normali, sono tende con letti sopra, dove ci sono spruzzatori d'acqua fresca, anche perché quest'anno e anche come l'anno scorso in Arabia Saudita c'è un caldo pazzesco, sì. Pensate che ieri l'altro alla Mecca c'erano 46 gradi, e quindi ci sono ogni possibilità, cioè tu sei povero, godrai dell'assistenza e dell'ospitalità della monarchia saudita, tra l'altro il re dell'Arabia Saudita è chiamato il custode dei due luoghi santi, cioè la Mecca e Medina, la città dove è sepolto il profeta Muhammad. Se sei ricco puoi avere hotel a 5 stelle, ci sono tutti gli hotel, c'è l'Hilton, c'è lo Sheraton, ci sono tutte le catene possibili e immaginabili e nuovi hotel che continuano. Grazie Marco Guidi per questa sinteticissima fotografia di La Mecca. Adesso c'è il traffico e poi di nuovo su Radio 24, Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. futuro delle città, città del futuro, questo stiamo tentando di indagare oggi a Nessun Luogo è Lontano. Allora, con il professor Petrillo, sociologo, stiamo fotografando delle situazioni, delle città, ci stiamo divertendo a forotare il mappamondo e a puntare l'indice, ma a questo punto passerei la palla al professor Vincenzo Donato, docente di progettazione urbanistica al Politecnico di Milano Bovisa, perché... perché la palla poi va agli urbanisti, che sono loro in qualche modo che insomma si rimboccano le maniche e mettono nero su bianco per ciò che riguarda le città. Professor Donato, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Allora, so che lei è un po' pessimista sullo stato dell'arte della professione di urbanista. Direi proprio sì. Ecco. Ma mi fa un esempio virtuoso di metropoli, di città 3.0? Senta, di esempi virtuosi ne avete fatti voi stessi, parlando di Toronto, potrei aggiungere una città che stranamente viene considerata un esempio virtuoso, perlomeno dal punto di vista della soluzione dei problemi, di certe soluzioni dei problemi di traffico, che è Bogotà. Quindi ce ne sono diversi, ecco. Io sono dell'opinione che le città ideali al giorno d'oggi e anche in passato, per la verità, non siano mai esistite. E il problema nelle città e nei paesi, nelle nazioni intendo dire, è quello della gestione, che poi affonda purtroppo le sue radici in positivo e in negativo in ciò che è avvenuto in ciascuno di questi paesi. Un esempio diciamo virtuoso, oserei dire sì, virtuoso, è quello della Germania, almeno in Europa, insomma, in cui un certo equilibrio fra città e campagna è ancora riconoscibile ed è stato salvaguardato. Sì. La stessa cosa vale per la Francia, che ha una struttura insediativa completamente diversa che ha facilitato in questo senso il suo assetto. E ahimè, in Italia le cose non le dolenti stanno, note. Mentre lei citava tutti gli esempi virtuosi, io professore stavo pensando per esempio nelle zone rurali a Friburgo in Germania, dove l'utilizzo dei pannelli solari è altissimo, ad esempio, per cui si ricorre all'energia solare per produrre poi energia elettrica. Professore, l'urbanista ha il grandissimo, il gravoso impegno, la gravosa responsabilità di progettare una città. Ci sono dei soggetti che interagiscono con lui e che insomma... Come funziona? Che rapporto c'è tra l'urbanista e tutti gli altri soggetti che ruotano attorno? Ce ne sono molti. L'urbanista non è un demiurgo. Una volta si pensava così, insomma, ecco. Ai tempi forse della pianificazione delle città greche esisteva questa sorta di demiurgo che dava l'ordinamento complessivo alla città, ma insomma c'erano dei modelli, ecco. Attualmente questi modelli sono scomparsi perché sopravvivono delle stratificazioni storiche che fanno di ciascuna città una città relativamente diversa, insomma. Certo. Questo vale in Italia come vale naturalmente anche altrove. Professor Donato, grazie per essere stato con noi. In estrema sintesi, sia a lei che al professor Petrillo, una domanda. Esiste una ricetta vincente per la città ideale, per la città del futuro? Sinteticissimi, professor Donato. La ricetta vincente è quella di, a mio avviso, di tenere ben presenti le misure dell'equilibrio delle città, che è dato dalla quantità di popolazione che possono ospitare, dalla distribuzione delle attività che possono ospitare e dalle specificità e dalle peculiarità che ciascuno dei luoghi in cui le città sono situate, specificità positive, diciamo, interpretate in positivo, che ciascuna delle città di cui si può parlare rappresentano dal punto di vista caratteristico. Grazie professor Donato. Professor Petrillo, telegrafico, la ricetta esiste? Beh, io aggiungerei a quello che giustamente affermava il collega Donato il fatto che esistono oggi tutta una serie di potenzialità nelle città che molto spesso non vengono sfruttate a dovere. Basti pensare, che so, alla sottooccupazione giovanile, al lavoro precario, al fatto che ci sono oggi grandi componenti di tipo creativo, per esempio, nelle nostre città che non vengono adeguatamente valorizzate. E allora una città del futuro che sappia fare proprie queste componenti attualmente sottoutilizzate, liberare anche un potenziale tecnologico che troppo spesso è unicamente asservito a degli aspetti di vantaggi economici immediati e di corto periodo, beh, queste città potrebbero sicuramente offrire per gli abitanti del futuro un ambiente non solo più sereno dal punto di vista della dimensione di vita, ma anche infinitamente più ricco e più gradevole. Allora, grazie professor Petrillo, insomma, parola d'ordine creatività per salvare le città del futuro. Grazie per essere stato con noi. Tocco una musichina tra me, tocca. E adesso vi porto a Rio de Janeiro con le musiche, le note del film Orfeo Negro, un film meraviglioso che riscriveva il mito di Orfeo Eurídice in chiave di Brasile, di samba e di favela. Buongiorno Alberto Riva. Buongiorno. Allora, Alberto Riva, giornalista e autore del libro Seguire i pappagalli fino alla fine, ormai vive a Rio de Janeiro da alcuni anni, profondo conoscitore della realtà brasiliana. Siamo partiti con un afflato un po' troppo elegiaco forse della favela, perché la favela è un po' il lato nascosto della metropoli, è un po' il lato B, il lato oscuro, no? Ho esagerato la parte creativa, il samba? Sì, beh certo, può esserci, diciamo, la versione, come hai detto tu, elegiaca, diciamo, con Orfeo Negro, che era una rilettura di Vinicius de Moraes, poetica del mito, e evidentemente non è neanche più molto una parte nascosta, è una parte che collabora, che convive, che trasfonde molte energie che sono sia positive che purtroppo negative, dovrebbero essere quelle più positive che quelle negative, invece spesso vengono risaltate più quelle negative. Sì, in realtà quello che sta accadendo in alcune storiche favelas di Rio de Janeiro è un processo virtuoso. Dopo un grande dibattito, no, mi ha raccontato anche nei giorni scorsi, c'era un dibattito su cosa fare di queste favelas, cioè qual è l'integrarle o fare che? Certo, è un dibattito, diciamo, storico, perché è una caratteristica storica secolare delle grandi città brasiliane. Beh, Rio de Janeiro in qualche maniera le sintetizza tutte, no? Perché le favela nascono alla fine dell'Ottocento, nel 1900, grandi immigrazioni da parte delle zone rurali del paese, che ancora oggi esistono, e che vanno formando questa urbanizzazione così abusiva sulle montagne. E quindi all'inizio la responsabilità sono da parte degli amministratori di queste città, che hanno sempre lasciato che le favelas si andassero formando e occupassero tutti gli spazi disponibili, e poi evidentemente è sorto il dibattito di cosa fare, come risolvere, perché poi evidentemente sono delle zone a bassissima scolarizzazione, con dei soliti problemi, diciamo, socio-economici di zone degradate, e quindi hanno sviluppato sono focolai di violenza e di problemi molto gravi. Quindi con che farne? C'è stato il partito di quelli che diceva bisogna estirpare come se fosse un tumore la favela, e quelli che invece che vince, diciamo, oggi questo partito è quello che va, come dire, bisogna fare in modo che venga di integrare, di riportare la favela nella città e non la separazione, non l'appartare. Certo, certo. Grazie allora Alberto Riva per questa tua testimonianza. Ricordo, giornalista del Rio de Janeiro, autore di Seguire i pappagalli fino alla fine. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. In Spagna c'è tensione diplomatica con il Marocco su Ceuta e Melilla, le due enclave appunto in territorio spagnolo. Lo leggo da El País di oggi. Ci sono stati momenti di tensione sia a Ceuta che a Melilla. Il Marocco si è ufficialmente lamentato con la Spagna. Il problema sono state delle aggressioni che secondo il sindacato di polizia spagnolo hanno subito amelia funzionari di polizia spagnole da parte di cittadini marocchini. Secondo il sindacato, i marocchini non vogliono riconoscere l'autorità delle donne poliziotte. In realtà questa cosa nasconde tensioni ben più profonde, perché Ceuta e Melilla sono strascichi ormai coloniali, sono due isole, due pezzettini di Europa incastonati in territorio africano. Il catasto di Beirut ha affermato oggi che l'albero conteso dopo il taglio del quale ci sono stati gli scontri di cui vi abbiamo dato conto la settimana scorsa era in territorio libanese, quindi va a smentire tutte le ultime versioni ufficiali israeliane e dell'ONU riportate nei giorni scorsi. Lo avevamo già accennato ieri, Kagame in Ruanda ha vinto le elezioni presidenziali con il 93% dei voti, lo ha reso noto la Commissione Elettorale Nazionale. Era questa l'ultima notizia, l'ultimo WhatsApp di oggi. Un saluto da Giampaolo Musumeci, da Valeria Coffaro in redazione, da Fabio Cantadori in regia. L'appuntamento è per domani 13:15, non prima di avervi ricordato che nessun luogo è lontano.